Si governa al lavoro per una nuova soluzione, riunione in corso al Ministero dell'Economia. L'esecutivo dice Renzi al lavoro sui primi dossier. Intanto si approfondisce la spaccatura all'interno del Movimento 5 Stelle. Un altro deputato lascia il gruppo. Schettino torna a bordo davvero. Oggi l'ex comandante della Costa Concordia è salito sulla nave che ha condotto al naufragio. Protestano le associazioni di parenti delle vittime. In Ucraina resta altissima la tensione in Crimea. I filorussi occupano il Parlamento. Yanukovych, il presidente, sono ancora io. Vanno bene le aste di titoli di Stato. I rendimenti dei BTP decennali toccano i minimi dal 2005. Giù le borse. L'indice di fiducia delle imprese mette a segno il quarto rialzo consecutivo. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti che se volete potete commentare come sempre via sms al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook. Iniziamo dunque dal decreto Salva Roma che ieri è saltato, il governo sta lavorando ad una soluzione, intanto ci sono le parole dure del sindaco Marino intervenuto questa mattina ai nostri microfoni. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi per fare un punto. Sì, buongiorno Simone. Prima l'ultimatum di Marino, poi l'irritazione di Palazzo Chigi e davvero scontro aperto sul Salva Roma, anche se si sta cercando una soluzione. Partiamo dal sindaco intervenuto questa mattina appunto a Mix 24, minaccia il blocco della città, evoca i forconi, afferma che a marzo non ci saranno i soldi per i dipendenti comunali, per gli autobus, per gli asili nido, per i rifiuti, neanche per organizzare la santificazione dei due papi. Un sindaco a dir poco furioso, il governo deve restituire a Roma ciò che è di Roma. Roma dice, ma sentiamolo. Ma se non ha questi soldi se ne va? Ma guardi che... mi dica un sì o un no, che si capisce. No, io le dico quello che ho da dirle, non rispondo a delle domande che ma non hanno precisa. Senso fatte così. Ma la mia risposta è molto chiara. Io se la fanno tanti. Io da domenica blocco la città. Oh, ecco, dica una cosa precisa. Quindi le persone dovranno attrezzarsi, sfortunati i politici del palazzo che hanno le auto blu, loro vabbè, potranno continuare a girare, i romani invece non potranno girare fin quando allora, la politica non si sveglierà. Allora, domenica si blocca Roma. Parole che non sono piaciute affatto a Palazzo Chigi, toni inammissibili, stiamo lavorando per risolvere con urgenza un problema non creato da noi, spiegano fonti di Palazzo, riferendo poi che tra Renzi e Marino c'è stata una brusca telefonata. Proprio in queste ore in realtà appunto i tecnici del comune di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia stanno cercando una soluzione per evitare il default della capitale. Ricordiamo che la questione nasce dal ritiro avvenuto ieri del decreto Salva Roma che conteneva i 485 milioni di euro di aiuti finanziari alla capitale necessari appunto per evitare il dissesto finanziario, non è stato convertito in legge dopo l'ostruzionismo e veti incrociati di Movimento 5 Stelle e Lega. È probabile che a questo punto si arrivi ad un provvedimento in Consiglio dei Ministri, probabilmente domani, che recepisce alcune misure, alcune del Salva Roma, mentre verrebbero fatti slittare i termini per la presentazione del bilancio da aprile a giugno e poi dovrebbe essere posto su questo provvedimento la fiducia quando arriverà in Parlamento. A te Simone. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Passiamo a parlare del governo. Oggi appunto, come si diceva, c'è questa riunione sul Salva Roma, ma Renzi ovviamente sta lavorando anche su altri dossier. Vincenzo Miglietta, eccoci. Buongiorno, si riparte dunque a Palazzo Chigi da alcuni punti fermi anticipati ieri dal Premier, taglio di 10 miliardi del cuneo fiscale, un possibile sconto del 30% dell'IRAP, il Jobs Act pronto per il bilaterale con la Merkel del 17 marzo e lo sblocco del patto di stabilità per permettere ai comuni di spendere per le scuole. Siamo al lavoro sui dossier più urgenti del governo, ha ribadito questa mattina il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tra questi vi è anche il nodo viceministri e sottosegretari, buona parte delle quote da assegnare ai partiti della maggioranza è stata già decisa, ma restano diverse caselle ancora da riempire e serve dunque più tempo rispetto a quanto previsto, da qui lo slittamento molto probabile a domani del Consiglio dei Ministri. Il numero complessivo comunque si aggira attorno alle 45 figure tra viceministri e sottosegretari. Altro capitolo, quello della delega fiscale, discussione alle battute finali. Il sistema tributario può e deve essere modificato favorendo la crescita, ha spiegato il ministro dell'Economia Padoan. La strategia per posti di lavoro Lavoro e Imprese, ha aggiunto il responsabile del Ministero di Via 20 Settembre, sarà uno dei punti chiave che guideranno l'azione del governo. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Fin qui dunque le cronache dal governo. Intanto ci sono tensioni a livello parlamentare, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle. Stanno arrivando degli aggiornamenti, tra questi c'è quello che in 6 hanno presentato ufficialmente le dimissioni alla presidenza del Senato. Ne parleremo tra un attimo, ma prima vogliamo raccontarvi questa giornata nella quale l'ex comandante della Costa Concordia, Schettino, è tornato sulla nave. Sono passati 2 anni dal 13 gennaio del 2012 in cui nel naufragio della Costa Concordia morirono 32 persone. 2 anni dopo, Francesco Schettino, il comandante principale imputato nel processo, è tornato sul luogo del naufragio ed è salito a bordo del relitto insieme a periti e consulenti. Il nuovo sopralluogo, disposto dal Tribunale di Grosseto, verte sul generatore di emergenza, che secondo alcune parti civili e la difesa del comandante non avrebbe funzionato adeguatamente dopo l'impatto. Di qui la presenza di Schettino. Quella notte, insiste il comandante, il generatore non funzionò. Intanto il sindaco del Giglio, Sergio Ortelli, ha confermato che la rimozione del relitto dovrebbe avvenire entro fine giugno. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo a parlarne più avanti e sentiremo un avvocato di parte civile nel processo appunto sulla Costa Concordia, perché a quanto pare molti dei parenti delle vittime non erano contenti appunto di questo ritorno di Schettino sulla nave. Adesso noi veniamo alla situazione in Ucraina, che continua ad essere tesa. È stato di allerta in Ucraina. Il Ministero dell'Interno ha mobilitato le forze speciali dopo il blitz filorusso al Parlamento della Crimea, occupato da una 30 di uomini armati in mimetica che hanno issato la bandiera russa sull'edificio al posto di quella ucraina. A preoccupare maggiormente è il ruolo che Mosca deciderà di avere. Qualsiasi movimento dei militari della flotta russa del Mar Nero in Crimea, fuori dalle zone prestabilite dagli accordi bilaterali, ha messo in guardia il presidente ucraino ad interim, sarà valutato come aggressione contro l'Ucraina. Intanto, mentre Washington fa filtrare l'irritazione per le esercitazioni militari russe ai confini con il paese e la NATO sollecita Mosca a non intraprendere azioni che possano accrescere la tensione, torna a farsi sentire il presidente destituito Yanukovych. Mi considero ancora il legittimo capo dello Stato ucraino eletto dai cittadini, ha scritto in una dichiarazione inviata all'agenzia di stampa russa ITAR-TASS, secondo cui Mosca avrebbe accordato a Yanukovych la protezione richiesta, impegnandosi a garantirne la sicurezza nel territorio della Federazione Russa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi torniamo alla politica adesso e torniamo appunto alle tensioni all'interno del Movimento 5 Stelle, che stanno letteralmente esplodendo in questa giornata. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così, è la fine del sogno di un movimento di pari, si è sfogato così stamattina Francesco Campanella, che lo ricordiamo è uno dei 4 senatori dissidenti cacciati ieri dal Movimento 5 Stelle, un'espulsione la sua chiesta dall'Assemblea dei Parlamentari Pentastellati, auspicata da Beppe Grillo e poi ratificata dagli iscritti al blog dell'ex comico. Per Campanella quanto è successo dimostra che ormai è chiaro che sulle questioni importanti a decidere sono soltanto Grillo e Casaleggio, e lo fanno senza consultare senatori e deputati. Proprio Grillo ieri si è detto convinto che dopo le espulsioni il suo gruppo sarà più coeso. Quanto successo sta però in realtà sprofondando nel caos la compagine grillina, perché 10, forse 15 parlamentari stanno meditando di lasciare il movimento e potrebbero anche dare vita ad un nuovo gruppo. Come annunciato, uno di loro, Alessio Tacconi, un deputato, stamattina ha confermato che abbandonerà il gruppo alla Camera e ha chiesto anche di smentire le voci di sue presunte irregolarità nella restituzione dello stipendio. Se così non fosse, ha detto Tacconi, vorrà dire che anche nel Movimento 5 Stelle si fa uso della cosiddetta macchina del fango. Scusate, come lui, intanto a breve anche un altro deputato, Ivan Cataldo, questione di minuti, potrebbe annunciare la sua uscita dal gruppo, e poco fa è arrivata anche la replica di quella che viene considerata l'ala ortodossa del movimento. Finalmente Zavorra che va via, persone che da questo momento diventeranno parassiti, dovrebbero dimettersi, non cambiare gruppo, hanno scritto alcuni esponenti 5 Stelle, fra i quali figurano anche esponenti di primo piano come Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per ora è tutto. E grazie Andrea Viali, anche su questo torneremo più avanti e ci collegheremo con una senatrice che ha deciso, appunto poco fa annunciato, le dimissioni da senatrice e quindi non dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Intanto nella notte è stato violato il profilo Twitter della Casaleggio e Associati. E di mezzanotte e mezzo il primo tweet in cui in inglese si sbeffeggia Casaleggio per essere riusciti a violare la security del suo account. Allora si capisce che si tratta di hacker che hanno preso possesso dell'account Twitter ufficiale di Casaleggio Associati e hanno iniziato a pubblicare a nome di Gianroberto Casaleggio, inviando tweet comunque troppo sopra le righe rivolti alla trasmissione TV La Gabbia e poi spingendosi oltre nei commenti, come spiega Carola Frediani, giornalista e autore dell'articolo a tutto campo su Wired. Non solo l'account Twitter di Casaleggio Associati ma anche lo stesso blog non sarebbe abbastanza sicuro, lo hanno definito diciamo un colabrodo. Da lì una serie di uscite in cui si dice che la votazione sul blog di Grillo per ratificare l'allontanamento di alcuni parlamentari Movimento 5 Stelle è stata falsata e si diffida dalle consultazioni online. E la domanda è se la rete, sede della democrazia digitale, soprattutto del Movimento 5 Stelle, sia sicura e infallibile anche sul piano politico. Sono violati, bucati anche l'FBI, la NASA. È chiaro che si pone di più il problema nel momento in cui si ha un movimento politico che utilizza la rete in modo massiccio per prendere delle decisioni. Sul blog di Grillo è scritto: la polizia postale è stata immediatamente avvertita, i responsabili sono stati denunciati. Nessuno infallibile in rete, né la sicurezza dei siti né anche chi attacca. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo alle cronache dell'economia. Innanzitutto il dato sulla fiducia delle imprese che a febbraio segna un altro rialzo, il quarto consecutivo. L'indice si porta a 87,9, il valore appunto più alto da ottobre 2011, ossia da 2 anni. Il dato è dell'Istat, sono dunque livelli che non si registravano dall'entrata dell'Italia nell'ultima recessione. E poi ci sono le aste dei titoli di Stato che ancora una volta sono andate bene, come ormai accade da parecchio tempo, per una serie di motivazioni sulle quali insomma le questioni governative c'entrano poco o nulla, forse qualcosa di più nell'asta di oggi, perché è stata un'asta di titoli decennali che sono normalmente un po' più sensibili agli eventi politici. Ci colleghiamo con Moria Longo del Sole 24 Ore, che saluto, buongiorno Moria. Buongiorno a tutti. Allora, per quanto riguarda l'asta dei decennali è al 3,42% il rendimento, al minimo dal 2005, e per quanto riguarda i quinquennali al 2,14%, quindi tutto questo è positivo. Ha qualcosa a che fare il cambio di governo oppure no? Ha qualcosa a che fare, ma marginalmente, cioè il cambio di governo si è inserito in un clima di fortissimo fiducia tra virgolette nei confronti non solo dell'Italia ma di tutti i paesi del sud Europa, e che stanno attirando tantissimi capitali. Quindi il cambio di governo è un elemento in più, ma è soltanto diciamo un po' il contorno di un movimento che i mercati finanziari stanno facendo in realtà da molti mesi. Cosa è successo? È successo che fino alla metà dell'anno scorso gli investitori, la speculazione internazionale privilegiava i paesi emergenti. Gli investitori andavano negli Stati Uniti, dove i tassi erano a zero e dove la Federal Reserve continuava a stampare moneta per 85 miliardi di dollari ogni mese. Ebbene, gli investitori prendevano questa liquidità abbondantissima a tassi a zero e la investivano nei paesi emergenti dove i tassi erano più alti. Quando a maggio si è iniziato a capire, del 2013, si è iniziato a capire che la Banca Centrale Americana probabilmente avrebbe iniziato a ridurre le emissioni di liquidità, e adesso addirittura si parla di probabili possibili rialzi dei tassi addirittura in futuro, ebbene questa speculazione ha fatto marcia indietro, quindi gli investitori hanno iniziato a disinvestire pesantemente dai paesi emergenti. Questo ha causato il crollo delle loro valute, il rialzo dei loro rendimenti, il crollo delle loro borse, e questi capitali sono andati in gran parte nel sud dell'Europa. Perché? Perché nel frattempo il sud dell'Europa ha iniziato a stare meglio. Abbiamo visto gli ultimi dati sul PIL, anche il sud Europa inizia ad avere il segno più nella crescita economica, anche l'Italia, l'ultimo dato è un più 0,1, che è assolutamente nulla, ma comunque è pur sempre un segno più. C'è la Banca Centrale Europea che adesso tanti si aspettano possa tagliare i tassi di interesse o fare nuove manovre espansive. c'è un clima più sereno un po' su tutto il sud Europa, e quindi questi grandi capitali speculativi in uscita dai paesi emergenti stanno in gran parte andando nel sud Europa. Infatti non è solo lo spread italiano che scende, ma anche i titoli di Stato della Grecia hanno fatto un rally pazzesco, stanno salendo tantissimo come prezzi, quindi scendendo come rendimenti. Addirittura la borsa di Atene è la migliore in Europa nel 2014, stanno andando in Spagna, in Portogallo. Per di più tenete conto che l'Irlanda, che è stato un paese salvato dall'Unione Europea qualche anno fa, è uscita a dicembre da, appunto, da questo piano di salvataggio, e quindi si è in un certo senso emancipata, è tornata a camminare da sola, sì, perché ha fatto tante riforme. Il Portogallo dovrebbe uscire dagli aiuti europei quest'anno, la Spagna sta facendo molte riforme, l'Italia è quella che, a detta di tutti gli economisti, ha fatto meno riforme degli altri, però questa ventata nuova del governo Renzi, nuova tra virgolette, che comunque almeno a parole parla di riforme, in questo clima di euforia generale sta aiutando. Però, sta aiutando. Però, Renzi è il contorno, non però, è la causa. Esatto, le motivazioni in realtà sono altre. Io ti ringrazio, Moria Longo, anche come sempre per la tua chiarezza in una giornata, quella di oggi, nella quale i mercati sono negativi, il FTSE MIB c'è dell'1,07%, il FTSE All Share l'1,05%. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sei senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato ufficialmente le dimissioni dal Senato e quindi non lasciano il gruppo, ma chiedono proprio di lasciare il Senato. Grande tensione all'interno del Movimento, i più ortodossi come Di Battista e Di Maio parlano di parassiti per quelli che hanno deciso di cambiare gruppo. E scontro sul Salva Roma. Il sindaco Marino questa mattina è intervenuto a Mix24, ha minacciato: blocco la città da domenica. Il governo è al lavoro per una nuova soluzione. Intanto ci sarebbe stata una telefonata molto tesa, energica, la definiscono fonti di Palazzo Chigi, tra Matteo Renzi e appunto lo stesso Marino. Schettino torna a bordo davvero. Oggi l'ex comandante della Costa Concordia è salito sulla nave che ha condotto al naufragio. In Ucraina resta molto alta la tensione in Crimea, i filorussi occupano il Parlamento, Yanukovych, il presidente sono ancora io. Vanno bene le aste di titoli di Stato, lo avete sentito poco fa, i rendimenti dei BTP decennali toccano i minimi dal 2005. Saluto Michelina Suriano, avvocato di parte civile per il naufragio della Costa Concordia. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Quante persone assiste lei? Assisto 7 naufraghi della provincia di Bologna. 7 naufraghi della provincia di Bologna. Allora, mi è sembrato di capire che lei tra l'altro credo che sia là al Giglio, no? Sì, in questo momento sono al Giglio, che sto attendendo di salire con il secondo gruppo nel sopralluogo di oggi. Mi è sembrato di capire, anche da sue dichiarazioni dei giorni scorsi, che c'è una certa perplessità per il fatto che il comandante, il principale imputato per questo naufragio, sia stato fatto salire sulla nave. Sì, in effetti è alquanto singolare, vorrei definirlo, il fatto che lui solo oggi decida di salire, quando non lo ha fatto la sera del naufragio, non lo ha fatto a seguito dell'imposizione dell'autorità giudiziaria, non lo ha fatto quando il 23 gennaio io stessa, salendo a bordo nel primo sopralluogo, ho visitato la plancia, e lo fa oggi? La plancia era comunque la sua plancia, avrebbe potuto comunque lì dare un vero supporto. Secondo lei Suriano, perché ha voluto, chiesto di farlo adesso? Beh, io questo sinceramente non glielo so dire, ecco, non so se sia una scelta processuale piuttosto che la voglia, insomma, indifferita di partecipare a questo sopralluogo, ecco. Spero che sia stato mosso da un fattore umano anche in tutto questo, perché altrimenti sarebbe così devastante ancora una volta per i miei assistiti e per tutti quelli che soffrono ancora per questo naufragio. Ecco, come hanno reagito i suoi assistiti alla notizia? I miei assistiti, ma come tutti, come i familiari delle vittime, come gli abitanti del Giglio, sono a dir poco indignati, anche perché non ha effettivamente senso. Loro lo avrebbero voluto lì quella sera, lo avrebbero voluto con la faccia quella sera, e lui invece aveva deciso di non esserci. Sento una cosa, e le chiedo infine come sta andando il processo, perché poi in tutto questo quasi ne stiamo perdendo traccia, no? Perché concentriamo le nostre telecamere, i nostri microfoni sulla vicenda di Schettino e poi perdiamo un po' traccia appunto del processo. Sì, il processo è giunto quasi al termine dell'audizione dei testi della pubblica accusa e avremo ancora qualche data per i loro testi, poi partiremo con i nostri testi di parte civile a servire i rimanenti quelli dell'imputato. Direi che hanno fatto dei pronostici, insomma, di sentenze entro l'anno, ma queste sono, diciamo così, voci di corridoio. E tempi, secondo lei? Tempi, secondo me, se le dico sinceramente, se quello che è successo i giorni scorsi all'ingegner Porcellacchia e al capitano Casella, e quindi il filone di indagini parallelo a questa vicenda con una ipotetica violazione di sigilli, non dovesse influire con i suoi esiti in questo processo, potrebbe sicuramente rispettare quei termini di speditezza che ha rispettato fino ad oggi. Diverso è invece se insomma verranno accertate le responsabilità oggi ipotizzate, sarebbe così grave pensare che insomma il custode dipendente Costa Crociere e il loro tecnico abbiano modificato lo stato dei luoghi. Grazie a Michelina Suriano, avvocato di parte civile nel naufragio della Costa Concordia. Le auguro buona giornata e saluto Alessandra Bencini, senatrice del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, o ex Movimento 5 Stelle, o ex senatrice a questo punto. Bencini, buongiorno, benvenuta. Pronto? Ci sente? Sono la senatrice Fucsia, quindi c'è un errore. Vuole la Biancini, la chiamo. No. C'è stata evidentemente una confusione. No, ma guardi, ci interessa. Ci interessa sentire anche la sua opinione, perché insomma, la Biancini sappiamo che ha deciso di presentare le sue dimissioni, no? Hanno presentato le dimissioni. È sì. Tra i 9 dimissionari. C'è anche lei tra i dimissionari? No, non ci sono. Io resto qua anche perché io sono convinta che se ci sono dei problemi nel movimento vadano risolti all'interno. Io sono per il gruppo unito e devo dire la verità, io Campanella che difendo e difenderò, però oggi se potessi gli darei proprio 2 sberle a 2-2 finché non mi porta disparo, tra virgolette, perché parlare di movimenti alternativi, di soluzioni, come l'ho sentito fare in un'intervista, mi ha leggermente alterato, perché ci sono dei problemi, allora uno prova a risolverli, evidentemente se ci sono dei disguidi comunicativi, se delle cose non vanno come si vorrebbe, non rispecchiano la volontà degli attivisti oppure altro, no? Però non si parla di un altro movimento e quant'altro, però vabbè, vediamo tutto. Vediamo un po'. Con Campanella gli do quelle che non gli ha dato Grillo di sberle, okay. E poi mi rimetto in pace. Senta una cosa, su questi che cambiano gruppo, Di Battista, Di Maio, in una dichiarazione di poco fa parlano di parassiti addirittura, condivide? No, assolutamente no, sono persone che hanno dato molto, che lavorano, sono persone che lavoravano anche prima, quindi non sono persone che hanno cercato nel movimento una soluzione a dei problemi esistenziali o di altra natura, tutte persone felici del lavoro che facevano, quindi persone socialmente inserite, tra virgolette, quindi non è essere parassiti da cosa, hanno dato un contributo, hanno dato lavorato e ci credevano, speriamo anche di utilizzarli in questo senso. Oltretutto nessuno di loro l'ho sentito dire qualcosa contro gli obiettivi del movimento, i temi del movimento, quindi insomma alla fine quando uno condivide i contenuti, no? Quando uno condivide gli obiettivi, mi viene da pensare che siamo un po' alla situazione dei divorzi facili, no? Allora voglio dire, in una coppia i problemi ci sono, si dovrebbero risolvere prima di mandare tutto, di buttare tutto dalla finestra, tra virgolette. Questa facilità di interrompere le cose, secondo me, non è matura. Fucsia. È tipico dei nostri tempi, non abbiamo la pazienza di tollerarci, tra virgolette, di capirci. Fucsia, ma è stata una manovra un po' sporca quella che poi ha portato all'assemblea e alla procedura, all'apertura della procedura di espulsione di questi 4 senatori, secondo lei? Perché io ho guardato una parte della vostra assemblea in streaming, sono sincero, non proprio tutta, insomma, ecco, perché poi uno può lavorare fino a un certo punto, mettiamola così. Allora, l'assemblea streaming congiunto è stato il peggio che abbiamo dato ad oggi per una serie di motivi. È stata sporca, no, è stata diciamo non corretta, non ha seguito le procedure, evidentemente ci sono stati degli errori a gestire il tutto. Se lei invece avesse visto, cioè fosse andata in streaming l'assemblea del giorno dopo dei senatori, a quel punto invece uno si rendeva conto che ci sarebbero stati 3.000 motivi per tenere unito il movimento e anche per rinnovare il voto, perché nessun altro movimento politico c'è tanta convinzione, affetto, passione. Delle volte gli errori si fanno proprio quando l'irrazionalità di quello che uno sente prevarica ragionamenti freddi di logica poltronistica. Mi scusi Fucsia, perché lei la sta buttando, io capisco anche, su un profilo emozionale, ma qua non è che c'è anche semplicemente un predominio del duo Grillo Casaleggio anche su una parte dei senatori e dei deputati del Movimento 5 Stelle che non riescono a svincolarsi, mettiamola così? Assolutamente no, i problemi non li creano Grillo e Casaleggio, i problemi li creano la mancanza di maturità delle persone, i fanatismi di certe persone, l'incapacità di organizzarsi certe volte, no? Allora, ma tipo Di Battista e Di Maio sono, Battista e Di Maio sono dei fanatici secondo lei? Allora, Di Battista e Di Maio, sono due bravissime persone, tra parentesi, sono due persone che rappresentano il Movimento 5 Stelle, sì. No? Sono due ragazzi giovani, ma che fanno meglio di tanti vecchi, tra virgolette, quindi onore al merito. Permesso questo, forse però, nonostante tutti gli aspetti positivi che sottolineo e condivido, forse l'aspetto giovanile impedisce forse una valutazione di cogliere certe sfumature nelle critiche, no? Quindi semplificano troppo. Delle volte la vita non si semplifica tanto, io sono per le cose semplici, non per la semplificazione, però delle volte ridurre una sintesi eccessiva toglie verità alle cose, quindi bisogna anche distinguere. Uno può fare una sintesi, ma a quel punto le parole devono essere esatte, quelle che hanno utilizzato loro non corrispondono a me. Non corrispondono al vero. Un'ultima cosa, ci conferma che sono 9 quindi senatori, perché sulle agenzie circola che sono 6 senatori che si sono dimessi, sono 9 quindi? Allora, sono i 4 più 5. Ah no, perché i 4 poi... dice che non tutti sono dimessi, solo Reiana, eh? Questo dicono le agenzie, poi lei ne saprà più di noi, spero. Guardi, io adesso a questo punto... c'è una confusione tale, dice. È una confusione tale, esatto, perché il momento è un po' così. Vabbè. Però, hanno detto tutti che si dimetteranno, però io aggiungo anche che tutte queste dimissioni probabilmente in Senato verranno respinte e quindi ci ritroviamo ad affrontare il problema tra un po', ma magari questo ci aiuta anche a far chiarezza e magari aggiustare anche il tiro. A me, devo dire la verità, in questo momento pesa molto avere 9 voti in meno, 9 persone valide in meno, 9 amici in meno, e questo è un Movimento 5 Stelle che invece di crescere c'è un piccolo snellimento, tra virgolette. Invece io lo vorrei vedere crescere fino ad andare al governo. Senta, un'ultimissima cosa adesso davvero. Ha detto che forse ci poteva passare la Bencini, ce l'ha là sotto mano? No, non ce l'ho sotto mano, ma gliela passo. Io spero, poi tra l'altro, che ci date occasione di parlare di altro, perché non vorrei assolutamente, però vede che parlava solo di se stesso, poi vede Fucsia, però cerca identità, però questo è il momento, mi rendo conto che vi abbiamo dato l'occasione, vede Fucsia, esatto, quello che dico, vi ci mettete anche voi. Allora facciamo una cosa, io intanto vado in pausa, in pubblicità, poi c'è la borsa e magari vediamo di recuperare anche la Bencini e sentire che cosa ci dice. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno presentato le dimissioni da senatori, quindi dal Senato, nelle mani del presidente Grasso. Ancora non è chiaro quanti siano, 6 dicono le agenzie, 9 ci ha detto poco fa la senatrice Serenella Fucsia. C'è uno scontro sul Salva Roma, il sindaco Marino è intervenuto a Mix24, ha minacciato, blocco la città da domenica, telefonata molto tesa con Renzi, governo al lavoro per una nuova soluzione. Schettino torna a bordo, oggi l'ex comandante della Costa Concordia è salito sulla nave che ha condotto al naufragio. Protestano, lo avete sentito, le associazioni di parenti delle vittime. In Ucraina resta molto alta la tensione, in Crimea i filorussi occupano il Parlamento. È il momento della borsa. Borse in diretta. sulla quale a quanto pare, ma in realtà la tendenza negativa europea, non hanno influito molto le aste di titoli di Stato delle quali abbiamo parlato poco fa, che sono andate molto bene. Milano cede quasi un punto percentuale sul FTSE MIB, 1,095% sul FTSE All Share, Francoforte è negativa dell'1,41%, Parigi dello 0,6%, Londra dello 0,65%. Isabella Tasso, Radio Corriere del Sole 24 Ore, ciao e bentornata. Buongiorno. Come mai? Le borse avevano aperto marginalmente positive, ma hanno poi girato in negativo. Secondo gli operatori, l'inasprirsi della tensione in Ucraina fornisce all'investitore un'occasione per vendere. Non è arrivato sostegno dai numerosi dati macroeconomici arrivati in mattinata, fra cui la disoccupazione tedesca stabile al 6,8% e gli indici di fiducia in Eurozona in leggero miglioramento. Nessun sostegno ai listini, neppure dai future americani, visto che sono in leggero ribasso. Questo in attesa dell'intervento della Presidente della Riserva Federale Janet Yellen oggi pomeriggio al Senato. Allora, pochi, veramente pochi i titoli positivi. Monte dei Paschi più 2,10%, come mai? Sì, Monte dei Paschi ha passato la mattinata in negativo, adesso ha girato e si è portata più 2%, Carige fa più 2,5% ed è Tonica all'indomani del Consiglio di Amministrazione che ha ribadito l'impegno a esercitare la delega per l'aumento di capitale entro il termine previsto di fine marzo, eseguendo però l'operazione a giugno come chiesto dalla Fondazione Azionista. Per il resto debole il comparto finanziario, in rosso Unicredit, in rosso anche Intesa San Paolo. E anche Mediolanum che cede il 2,5%, il titolo peggiore è Finmeccanica, meno 2,69%. Grazie Isabella anche per oggi, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Parliamo adesso delle nuove regole per i fumatori. Il Parlamento europeo ha approvato ieri a stragrande maggioranza la nuova direttiva sul tabacco. Entrerà in vigore dal 2016, ma non tutti sono d'accordo. Scoraggiare i giovani a fumare. Questo è lo scopo della direttiva europea approvata dal Parlamento europeo a stragrande maggioranza ieri. Ora gli Stati hanno 2 anni di tempo per recepirla. Tra le novità, oltre alle scritte, arriveranno sui pacchetti delle immagini shock. Non verranno più venduti i pacchetti da 10, che secondo la Commissione e il Parlamento piacciono tanto ai ragazzi, e saranno abolite le sigarette al mentolo. Misure che non convincono Pietro Mansurò dell'Istituto Bruno Leoni. È un po' un trattare gli adulti come bambini, quindi dà fastidio anche solo per questo. In realtà poi ci sono tante idee, quasi mai capita che si studi anche l'efficacia delle misure in questione. Paper che ne dimostrano l'efficacia sotto oltre ogni dubbio sono abbastanza rari. Secondo la Commissione però l'effetto ci sarà e sarà un calo del 2% nel consumo di tabacco in 5 anni, pari a circa 2,4 milioni di fumatori in meno nell'Unione Europea, con un risparmio di 506 milioni di euro l'anno in assistenza sanitaria. Dove ci sono state delle divisioni fra Consiglio e Parlamento è stato sulle sigarette elettroniche, ha detto la parlamentare laburista inglese Linda McEwan. Nel caso di quelle considerate prodotto di consumo, la direttiva lascia ai singoli paesi il diritto di regolarle come vogliono, ma per le sigarette elettroniche che si presentano come presidi medici dovranno essere sottoposte alle autorizzazioni del caso e vendute in farmacia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che di Europa parliamo, è in questo momento in corso il discorso della cancelliera tedesca Angela Merkel davanti alle Camere del Parlamento riunito a Londra e quindi a Westminster nella sua prima giornata di visita ufficiale. L'Europa non pagherà il prezzo per mantenere il Regno Unito nell'Unione Europea, dice Merkel. Mi è stato detto che ci sono particolari aspettative per il mio discorso. Chi si aspetta che il mio intervento apra la strada a riforme nell'Unione Europea rimarrà deluso. Così Angela Merkel. Intanto noi parliamo di economia e parliamo di un'operazione avvenuta, o meglio confermata questa mattina, è l'operazione con la quale Blackstone ha annunciato l'acquisto del 20% di Versace. Il fondo americano Blackstone paga un multiplo di 2 volte i ricavi per il 20% della Versace. Valuta così 1 miliardo, il 100% della Medusa, visto che il 2013 chiuderà con poco meno di 480 milioni di fatturato. Ma quali sono stati i multipli delle altre acquisizioni da parte dei colossi del lusso e dei fondi di private equity? Più basso di Versace c'è solo Brioni, con 1,8 volte i ricavi. A quota 2,2 volte la Valentino, a 2,3 la Sergio Rossi, ma quelli erano altri tempi. A 2,6 la Pomellato. Per Bulgari il multiplo sale ed è di 3,5 volte il fatturato e per l'Oro Piana addirittura di 4,3 volte. L'ingresso del socio aiuterà lo sviluppo del retail non soltanto nei mercati emergenti. Ma perché è importante avere il controllo della rete dei negozi? Semplice, perché il ritorno sul capitale investito balza alle stelle. Prada, per fare un esempio, nel 2006 vendeva nei propri negozi il 49% dei ricavi totali e aveva un ritorno sul capitale investito del 6%. Nel 2012, con l'81% dei negozi gestiti direttamente, aveva un ROIC del 25%. Paola Bottelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora il mercato immobiliare. Un mercato della casa ancora ingessato per la stretta sui mutui e la scarsa fiducia nel futuro. È il quadro dell'osservatorio FIAIP presentato oggi a Roma, ma è anche la minore disponibilità di reddito insieme alle pesanti tasse sulla casa a far rinviare le decisioni di acquisto. Un quadro che tradotto in numeri ha significato una perdita di valore al metro quadro del 12,5% nel 2013. Nelle 9 maggiori città cali tra il 12 e il 20%. Solo a Palermo il metro quadro oggi costa il 10% in più di un anno fa. Attesi per l'estate lievi segnali di ripresa, condizionati però dalla stabilità politica, che nessuno oggi può prevedere. Paola Dezza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, chi ci scrive? Ne abbiamo le scatole piene di interviste ai 5 Stelle. Beh, ammetterete che in questo momento sono i 5 Stelle sulla notizia. A proposito, vi dico che vi avevamo annunciato un'intervista con la Bencini, una delle senatrici che ha deciso di dimettersi. Ebbene, in questo momento a quanto pare non può. Noi cambiamo decisamente argomento e parliamo dei bambini americani che stanno diventando più snelli. Per quelli dai 2 ai 5 anni il tasso di obesità è calato del 43% negli ultimi 10 anni, un dato incoraggiante. In Italia invece la situazione non è tra le migliori, anche se si registra qualche piccolo progresso. Adriana Fracchi ha intervistato Angela Spinelli, ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamo. Noi raccogliamo i dati dal 2007-2008 e abbiamo visto una stabilizzazione, anzi anche non una leggera diminuzione. Quello che è vero comunque è che in Italia abbiamo dei valori molto elevati che risultano tra i più alti in Europa. Un bambino su 3 è in stato di sovrappeso o obesità. In particolare in obesità sono un bambino su 10. Questo è un po' il quadro della nostra situazione. Ecco, la situazione peggiore in quale area geografica dell'Italia? Il sud, i bambini fanno per esempio un po' meno la prima colazione, che invece è un'abitudine alimentare molto importante, e poi anche per quanto riguarda l'attività motoria o il guardare la televisione, giocare coi videogiochi per più tempo, la situazione è peggiore nel sud Italia. E rispetto al resto d'Europa? Nel 2008 eravamo il paese con il peggior valore, nel 2010 siamo al secondo o terzo posto insieme con Spagna e Grecia. Ecco, i bambini più magri dove sono? Nel nord Europa. Adesso ci fermiamo, c'è la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo e come sempre sarà il momento di Mario Platero e di America 24. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora alta la tensione all'interno del Movimento 5 Stelle. Un numero di senatori, al momento imprecisato, tra i 6 e i 9, ha deciso di dimettersi proprio dal Senato, presentando appunto le dimissioni nelle mani del presidente Grasso. Altri deputati hanno lasciato il gruppo per aderire al gruppo misto. Lo scontro sul Salva Roma, il sindaco Marino, intervenuto a Mix 24, minaccia blocco la città da domenica. Poi c'è stata una telefonata a Correnzi, che fonti di Palazzo Chigi definiscono energica, mentre invece Marino, insomma, dice tutto ok, è stata una buona telefonata. Schettino torna a bordo, l'ex comandante della Costa Concordia è salito sulla nave che ha condotto al naufragio. C'è la protesta delle associazioni di parenti delle vittime. In Ucraina resta altissima la tensione in Crimea, i filorussi hanno occupato il Parlamento, Yanukovych dice il presidente sono ancora io. Vanno bene le aste dei titoli di Stato, i rendimenti dei BTP decennali toccano i minimi dal 2005, giù le borse, l'indice di fiducia delle imprese mette a segno il quarto rialzo consecutivo. È il momento di America 24 di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Today I am joined by researchers who invent some of the most advanced metals on the planet. Barack Obama, lo avete sentito, dice: beh, sto per annunciarvi il progetto Iron Man, un progetto top secret sviluppato dal Pentagono che forse ancora oggi è classificato. Il presidente americano ovviamente scherza, ma non troppo, perché ha fatto un annuncio dalla East Room della Casa Bianca martedì pomeriggio con imprenditori, finanzieri, scienziati e ha presentato due nuovi poli manifatturieri, uno a Detroit, uno a Chicago, dopo quelli di Dayton in Ohio, di Raleigh in North Carolina. E questi poli, in particolare uno di questi poli, poggia su una ricerca del Pentagono, e cioè su una nuvola tecnologica che si occupa di tecnologia digitale per la gestione dei processi produttivi delle aziende americane. L'altro invece, e ha menzionato alcuni scienziati presenti alla Casa Bianca, punta su nuovi metalli super leggeri che saranno costruiti, realizzati, ricercati invece a Detroit. And that's why we're here today. To take new action. Ecco, Barack Obama dà anche un contesto economico, un contesto sociale a questa sua posizione, perché ha detto in questa sua dichiarazione, che ho fatto sentire sempre nel contesto della presentazione, dice: se vogliamo avere la stessa qualità di salario, la stessa sicurezza per una pensione adeguata che hanno avuto i nostri genitori, dobbiamo cambiare approccio. L'America è tornata ad essere competitiva nel settore manifatturiero, ma deve continuare a muoversi in avanti per far fronte alla concorrenza in arrivo da Cina, Germania, India, da tutti quei paesi che operano in modo aggressivo nello stesso settore industriale. E cosa vuol fare Barack Obama? Beh, vuole creare una quarantina di poli manifatturieri, dei manufacturing hubs, io ve ne ho citati quattro, ciascuno con una sua specializzazione settoriale, ciascuno organizzato secondo un modello di collaborazione strategica fra governo americano, università, aziende e capitali privati. Ecco, il modello è interessante. Per esempio a Detroit, vi dicevo, c'è l'idea di sviluppare materiali avanzati. Detroit ha le specialità della meccanica, dell'industria dell'auto, e dunque Obama dice: beh, abbiamo costruito nuove auto usando nuove leghe di acciaio leggero per costruire automobili più leggere che consumano meno, risparmiano denaro, aiutano a salvare il pianeta. Ma questi metalli, dice Obama, potranno essere anche usati per dotare le truppe di mezzi corazzati più leggeri, aerei ed elicotteri in grado di trasportare carichi molto più pesanti degli attuali, turbine a vento che generano più energia a un costo inferiore, protesi per aiutare chi ha subito amputazioni a vivere una vita normale. Ecco, mentre tutto questo avviene a Washington, ieri sera a New York c'è stato l'avvio di una conferenza al New York Stock Exchange, di un seminario con delle start-up italiane. Insomma, tutti devono crescere. Barack Obama tiene il piede sull'acceleratore, l'Italia cerca di crescere, e c'erano 14 piccole aziende, 14 start-up che hanno cercato un collegamento con la finanza americana. Io ho con me ai microfoni di America 24 Alessandro Castellano, amministratore delegato della SACE, che ha parlato proprio all'evento di ieri sera al New York Stock Exchange. Buongiorno Castellano. Buongiorno. Distretti industriali, noi li abbiamo. Mi sembra che Obama voglia fare un po' la stessa cosa, o sbaglio? Beh, noi li abbiamo creati sicuramente prima di Obama. Abbiamo tutta una serie di distretti industriali che hanno dimostrato di poter continuare a supportare molto bene il nostro export. Benissimo, ma noi rischiamo di perdere il treno qui, perché se l'America comincia a costruire distretti industriali o manifatturieri, come li chiama Obama, ad alto contenuto tecnologico, e noi continuiamo ad essere legati alla vecchia meccanica oppure alla tecnologia, ma possiamo farlo anche noi? Rischiamo di restare indietro? Cioè, come la vede la cosa? Il rischio che noi abbiamo relativamente a questa nuova iniziativa del governo americano è quello non tanto di non avere imprenditori o non tanto di non avere distretti industriali. Il nostro problema, ben evidenziato dal nuovo governo, è quello di avere delle infrastrutture, il costo dell'energia ed in particolare la burocrazia che non siano competitive rispetto ad altri paesi. E dunque cosa possiamo fare? Le racconto l'esempio di ieri ad una colazione. Ho incontrato un importante investitore, uno dei primi che sta cercando di sviluppare dall'America il discorso dei mini bond, cioè di obbligazioni emesse per le piccole e medie aziende, e mi ha, diciamo, confermato che c'è una certa ancora riluttanza da parte degli investitori istituzionali. È appena tornato da Tokyo, ha visitato anche un fondo sovrano a Singapore, che entrambi hanno manifestato interesse per l'Europa, interesse per le capacità italiane, soprattutto quelle di aziende esportatrici, interesse per gli imprenditori italiani, ma forte resistenze dal punto di vista della, per esempio, legge fallimentare, della burocrazia e di tutti quelli che sono impedimenti regolamentari che sembrano oggi vedere l'Italia molto meno competitiva anche di altri paesi europei. Beh, quindi è il problema di sempre, continuiamo a ripeterlo: non siamo competitivi perché la giustizia non funziona, perché la burocrazia non funziona, perché insomma perché tutto non funziona. E ogni nuovo governo dice: non vi preoccupate, ce ne occupiamo noi. Renzi sta promettendo la stessa cosa. Ecco, ci riuscirà Renzi? Lei ha qualche idea? Cosa farebbe lei se fosse, non dico al posto di Renzi, ma al Ministero dello Sviluppo? Guardi, io credo che è importante che ognuno faccia quello che sa fare, lo faccia bene e guardi a casa propria. Noi, per quello che riguarda la SACE, siamo passati negli ultimi anni ad un approccio molto più realistico con le aziende, molto più concreto, che è riuscito a supportare crescentemente un numero di aziende sempre più diciamo di piccola dimensione per quello che riguarda sia i loro investimenti in Italia, sia i loro investimenti all'estero. Parliamo dell'Italia, parliamo dei distretti, di queste aziende che lei dovrebbe aiutare e che debbono confrontarsi con aziende americane che possano avere dei vantaggi competitivi sul piano tecnologico. Ma lei come li aiuterebbe? Si potrebbe adottare un modello di sviluppo diverso, cioè potremmo creare delle zone franche, credo che questo qualcuno l'abbia già detto, ed inserire in queste nuove zone franche delle leggi che siano compatibili con, per esempio, alcune leggi di paesi europei che sono nel lavoro, nella rilascio delle autorizzazioni, negli aspetti regolamentari, che possano in qualche modo incentivare le aziende ad avere un sistema che le possa favorire. Ma c'è già qualcuno che lo fa questo? Esempi di questo tipo li abbiamo avuti in varie zone, cioè in Irlanda per esempio hanno fatto, naturalmente hanno preso non la parte manufatturiera ma la parte finanziaria. Singapore o altre zone del mondo dimostrano chiaramente che c'è stato uno sviluppo molto importante di aree che hanno costituito elementi di competitività proprio basati sull'attrazione degli investimenti esteri e sugli insediamenti produttivi. Ebbene Castellano, abbiamo parlato di grandi sistemi, zone franche, ma andiamo al concreto. Ci faccio un esempio. Guardi, oggi un immigrato in Italia non può comprare una macchina perché non ha un contratto a tempo determinato. Se venissero applicate le leggi americane, come in un famoso film della seconda chiave, e questo potesse avere la macchina perché qualora non paghi la rata, la società di leasing recupererebbe immediatamente la macchina, questo potrebbe creare posti di lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno dei Coldplay, nuovo single, Midnight. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. I ringraziamenti di oggi sono per Filippo Aureggi in regia, Laura Faggin in assistenza in redazione, come sempre tutta la redazione di Radio 24 per il lavoro fatto per la trasmissione. Se volete ci trovate come sempre sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e se volete mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. Ci fermiamo qua, tra un attimo c'è il giornale radio, c'è GR24 e poi domani alle 13 di nuovo Effetto Giorno.